Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.09, buona serata a tutti da Deborah Rosciani. Questa sera sarò io a tenervi compagnia per il resoconto della giornata economico-finanziaria. La tematica principale la potete già immaginare perché ormai ha accompagnato tutti i nostri principali appuntamenti di informazione oggi, ad eccezione di pochi contenitori. Immaginiamo che Carlo Genta non ne abbia parlato. Ovviamente ci riferiamo all'approvazione avvenuta in nottata e comunicata questa mattina all'alba del cosiddetto Recovery Fund, e quindi questi fondi, 750 miliardi di euro, che arriveranno a sostenere le economie europee più colpite dalla crisi economica che è scaturita dalla pandemia. È una decisione storica, qualcuno sicuramente l'ha definita così, senza precedenti, un risultato che sul quale forse in pochi scommettevano. Per molti un grande successo per l'Italia, ma non è che, come dire, i paesi frugali che hanno resistito e hanno un po' ostacolato le soluzioni poi adottate nelle ultime ore, non è che se ne siano proprio ritornati a casa con le pive nel sacco. Anche loro naturalmente hanno ottenuto qualche cosa, ma insomma ci sono molti aspetti da considerare per questo risultato economico, in una combinazione che è stata un po' modificata rispetto a quello che si ipotizzava fino a qualche giorno fa, in questa appunto proporzione fra sussidi e prestiti che verranno erogati appunto ai paesi che ne hanno bisogno. Sicuramente l'Italia ne viene fuori vincente, a prescindere dal dibattito politico che si è già scatenato, e ne parlava diffusamente Giampaolo Musumeci in Nessun luogo è lontano. I sovranisti in tutti gli stati appunto stanno in realtà parlando di un risultato che non è affatto un successo. Cercheremo di capire effettivamente quali sono i punti di vantaggio di questo accordo, quali invece i punti che ancora non sono del tutto chiari, ma soprattutto che uso ne farà l'Italia di queste risorse, che ovviamente sono anche molte risorse a debito, aumenterà ulteriormente il debito pubblico. Questi sussidi però erogati a fondo perduto, che cosa andranno a sostenere, quali settori, il green, il digitale, le infrastrutture, la ricerca, sono dei piani già identificati molto chiaramente. Bisognerà vedere appunto se a questo punto ci saranno le qualità anche politiche per portare avanti dei piani credibili nei confronti dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo, che ha creduto anche all'Italia, alle sue necessità in questo momento e ci sostiene in questo modo. Ne parleremo diffusamente nella seconda parte del programma con un economista, con Francesco Daveri, perché appunto, ribadisco, vanno chiariti molti punti di questa grande importante notizia della giornata, perché chiaramente è un accordo che per molti era assolutamente obbligato. Non si potevano lasciare i paesi in difficoltà appunto in questa condizione, perché con un'economia che scende a due cifre qualche sostegno pubblico è anche importante, bisognava metterlo sulle piatto, ma forse insomma non immaginavamo, non pensavamo che si potesse arrivare effettivamente al risultato di questa notte, dopo queste quattro giornate e quattro nottate appunto di trattative assolutamente estenuanti. Quindi un accordo obbligato ma che non era scontato, ne parleremo dopo. È comunque la notizia del giorno che ha impattato sui mercati finanziari. Stamattina l'Europa letteralmente brindava. Abbiamo avuto in partenza rialzi vicini ai due punti per le principali borse europee, con l'eccezione di Milano che invece ha scavalcato i due punti di guadagno. Per la verità però su Milano c'è da dire che è da qualche giorno sostenuta dal settore bancario, e ne parleremo stasera a Focus Economia, perché è in pieno svolgimento, come sapete, l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo su UBI, ma è partito già tutto tutto un tutta un'idea di possibili altre iniziative di consolidamento del settore bancario in Italia che potrebbero vedere coinvolte Unicredit, il Banco BPM, Biperbanca, la stessa Monte dei Paschi, dalla quale lo Stato deve uscire. Tanto basta da un paio di giorni a letteralmente infiammare tutti i titoli del settore. Parleremo con Marco Ferrando, responsabile della nostra redazione finanza appunto del Sole 24 Ore, di tutte queste ipotesi, che cosa si dice anche negli ambienti bancari, quanto e come si potrebbero sviluppare queste iniziative. E comunque, insomma, stiamo andando a creare, se l'OPS di Intesa Subi andrà in porto, un campione europeo a livello bancario, e possiamo anche immaginare, insomma, che Unicredit non voglia rimanere indietro rispetto a questa partita, quindi chissà che cosa c'è in ballo. Poi parleremo, e questo sarà il nostro tema di apertura dopo le notizie in breve, di bollette, un tema che ci interessa a tutti, perché tutti paghiamo la bolletta dell'energia, del gas, dell'acqua e dei rifiuti. E proprio questa mattina l'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, quindi la vecchia autorità del gas e dell'energia, e abbiamo anticipato questa notizia stamattina mentre eravamo in diretta a Due di Denari, ha pubblicato la sua relazione annuale. Ora la presentazione di queste relazioni da parte di tutte le autorità viene fatta in maniera molto più snella, niente più grandi cerimonie a Roma nei palazzi, ma è tutto online. Ci sono dei temi molto interessanti, perché ancora una volta l'ARERA ci racconta che per quello che riguarda le bollette elettriche, consumi di gas nel settore idrico, insomma, l'Italia rispetto alle altre economie europee, e questo è evidentemente un danno per i consumatori, paga di più, pesano tantissimo le fiscalità, appunto pesa tantissimo la fiscalità sulle bollette degli italiani. Ma insomma, io ve l'ho detta proprio così, brutale. Il presidente di ARERA Stefano Besseghini tra poco ci presenterà nel dettaglio i punti salienti di questa relazione, che peraltro si riferisce al 2019, chissà il 2020 che cosa ci racconterà, visto che anche tutto questo comparto affronta la pandemia, il Covid, le ricadute economiche, ma anche tutte le ricadute in termini di consumi, che sono nei mesi passati per certi versi tracollati per quello che riguarda il fronte aziendale ed industriale, ma aumentati dal punto di vista delle famiglie. E quindi, insomma, anche questo è uno spaccato interessante da commentare. Se volete, appunto, i commenti li potete fare voi al 349-238-6666, riceviamo i vostri sms, riceviamo i vostri messaggi su WhatsApp. Io vi aspetto, intanto sentiamo le notizie in breve della giornata. Sono persa la scaletta per un attimo, Maria Sole, eccoci qua, la riprendo. Allora, vi segnalo quello che sta succedendo sull'oro, probabilmente lo ha fatto anche Sebastiano Barisoni in questi ultimi giorni. Siamo a 1840 dollari l'oncia, siamo ai massimi da 9 anni a questa parte. Allora, molti si chiederanno, ma perché l'oro, che è considerato un bene rifugio, sta correndo nella stessa misura in cui stanno correndo le borse, il Nasdaq ai suoi massimi storici, anche ieri ha incassato molto, oggi un po' si è fermata la tecnologia americana, ma da settimane va molto bene, le borse hanno praticamente recuperato quasi tutto quello che hanno perso in questi mesi difficilissimi di marzo ed aprile. Perché l'oro corre? Perché a quanto pare gli operatori hanno deciso di, oltre a mantenere i loro investimenti nel settore azionario, nell'equity, anche di proteggersi contestualmente per eventualmente fronteggiare un altro tracollo, dovesse arrivare nei prossimi mesi, se ci fossero delle recrudescenze da parte appunto del Covid e della pandemia che dovessero avere appunto una ripercussione sui mercati. Quindi, insomma, una crescita parallela, sicuramente anche questo un tema di mercato molto interessante. Oggi è tornato a crescere a New York anche il petrolio, il West Texas è a 41,88 dollari al barile. Siamo in piena fase di trimestrali. Negli Stati Uniti nelle scorse giornate hanno rassegnato i conti big del settore bancario e finanziario. Adesso cominciamo con gli altri settori. Oggi ci sono i dati interessanti di Coca-Cola, quindi testiamo lo stato di salute dei consumi in America, un test sempre molto rilevante. Coca-Cola chiude il secondo trimestre dell'anno con vendite in calo del 28%, tutti a dieta negli Stati Uniti a causa della pandemia, a 7,15 miliardi di dollari e un utile di 1,78 miliardi, in diminuzione rispetto ai 2 miliardi e mezzo dello stesso periodo dello scorso anno. Nell'annunciare i risultati trimestrali, Coca-Cola ha anche annunciato una pausa delle sue attività sui social media per luglio per rivedere la sua politica in seguito alle proteste seguite all'uccisione di George Floyd. Sapete anche quanto tante big di corporate America abbiano deciso di rinunciare, per esempio, a fare pubblicità sui social network, che non prendevano una posizione contro i movimenti, appunto, dei neri negli Stati Uniti. E quindi anche questo, insomma, è un altro tema interessante che sta molto scaldando il dibattito pubblico americano. Sempre dagli Stati Uniti è arrivata oggi un'altra notizia interessante, che peraltro ha avuto anche una piccola così deriva italiana in termini di commenti e di iniziative politiche. E allora il Fondo Monetario Internazionale che cosa ci ha raccontato oggi? Che la pandemia del Covid rischia di penalizzare le donne ancora più di quanto non siano già penalizzate nel mercato del lavoro, ampliando il gap di genere che persiste nonostante gli ultimi 30 anni di progressi. Il Fondo Monetario invita la politica ad adottare misure che possano mitigare gli effetti della crisi sulle donne e prevenire ulteriori passi indietro sull'uguaglianza di genere. Quello che è positivo per le donne è alla fine positivo per affrontare le diseguaglianze di reddito, la crescita economica e la resilienza, mette in evidenza il Fondo, definendo essenziale l'adozione di misure che vadano a limitare gli effetti della pandemia sulle donne. E ne abbiamo visti tanti in questi mesi, parlando molto del nostro paese, naturalmente, in cui con il lockdown chiaramente molte donne hanno dovuto, da una parte hanno avuto la possibilità di sfruttare lo smart working stando a casa, ma chiaramente facendosi carico di tutto l'organizzazione, appunto, del ménage familiare, con i bambini a casa, la didattica a distanza e quant'altro, insomma, cose che abbiamo raccontato tante volte. A proposito di questo e dell'occupazione femminile, ci sono delle dichiarazioni del ministro del lavoro Nunzia Catalfo oggi. Le ha rilasciate in audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia. È mia intenzione, ha detto, insieme al Ministero per il Sud e la coesione territoriale, incentivare l'occupazione femminile nel Mezzogiorno d'Italia mediante misure di agevolazione contributiva. Intendo valorizzare il lavoro agile, che ha dimostrato preziose potenzialità di sviluppo, soprattutto negli ultimi tempi. Tuttavia, questo strumento dovrà essere ben strutturato al fine di evitare che si trasformi da importante misura per la conciliazione vita-lavoro in una condizione di maggior aggravio per le donne, costrette a moltiplicare le energie, lo dicevo poco fa, per ottemperare contestualmente ad impegni lavorativi e carichi di cura familiare. Infine, sempre sul tema dello smart working, bisogna anche rafforzare il diritto alla disconnessione, un tema di cui si discute molto, perché è giusto che sia così. E questo significa, cioè, se si lavora da casa, non dover stare 12 ore al giorno davanti a un dispositivo, appunto, tecnologico, per essere sempre attivi nel lavoro e dare sempre la garanzia all'azienda che si sta lavorando, nel caso questa in cui fosse preoccupata che ci si approfitti dello smart working. Non credo che chi sia in smart working sia in vacanza. Lo smart working nel decreto rilancio è stato prorogato per il 50% del personale della pubblica amministrazione per un graduale ritorno alla normalità, con la possibilità di riorganizzare gli uffici per il distanziamento sociale, ancora necessario perché il virus non è totalmente debellato. Pensiamo di inserire una norma di proroga anche per il lavoro privato nel prossimo decreto che faremo per il prosieguo degli ammortizzatori sociali. Queste invece le rassicurazioni fornite oggi in un'intervista dal sottosegretario al lavoro Francesca Puglisi. Anche di questo tema parlava ieri sera Sebastiano Barisoni. Insomma, c'è una vivace protesta in corso da parte di molte categorie professionali per la questione dell'ingorgo fiscale che si sta manifestando in queste settimane. C'è la protesta intanto dei commercialisti che annunciano lo sciopero di categoria contro la decisione del governo di non rinviare a settembre le scadenze fiscali. Oltre a questa è pronta anche un'agitazione da parte del mondo dei consulenti del lavoro. Io ve lo anticipo già perché è prevista per la prossima settimana questo stato di agitazione, ma domani ne parleremo noi a Due di Denari, per cui gli interessati possono collegarsi domattina a partire dalle 11. Allora, altri temi interessanti che riguardano le tasche, le abitudini di consumo e spesa degli italiani. Parliamo di quelle spese obbligatorie, come per esempio l'RC auto. Il prezzo effettivo medio della garanzia RC auto per il primo trimestre di quest'anno è di 392 euro. in diminuzione del 3,4% su base annua, quindi c'è una diminuzione di circa 14 euro. Questo emerge dal bollettino statistico dell'IVASS, che è l'autorità di vigilanza del mercato assicurativo. Queste statistiche sono molto interessanti da monitorare perché, come sapete, noi anche a Due di Denari ne parliamo spesso, c'è stato il blocco praticamente totale o comunque molto importante degli spostamenti nei mesi passati e di conseguenza anche un crollo dei sinistri, circostanza che ha liberato molte risorse da parte delle compagnie di assicurazione che in qualche maniera in certi casi si sono mosse autonomamente per restituire questo risparmio a tutti o a gran parte appunto dei clienti. Non lo hanno fatto tutte le compagnie, ma le autorità del settore hanno invitato le compagnie a redistribuire queste risorse. In ogni caso un effetto c'è quantomeno sui premi, secondo quanto l'autorità di controllo appunto ci racconta. C'è un altro tema interessante che riguarda invece i giovani, i neoassicurati, che come si sa pagano di più. Gli assicurati di età inferiore a 25 anni in classe 1 pagano 275 euro in più rispetto agli assicurati di età compresa fra i 45 e i 59 anni e 290 euro in più rispetto agli ultra sessantenni. Questo non è imputabile naturalmente al Covid, ma è sempre accaduto che appunto le classi, le prime classi sono sempre quelle più svantaggiate. Altri temi della giornata, ancora un paio di notizie prima del primo tema di questa sera. C'è questa tematica che ritorna ancora tra di noi, difficoltà di Alitalia. Si sta facendo largo questa notizia secondo la quale sarebbero pronti 4.000 esuberi ancora per la ex compagnia di bandiera, la compagnia di bandiera, comunque ci piace ancora definirla così. Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli oggi, in un'occasione pubblica, ha letteralmente smentito questa circostanza. Non esistono i 4.000 esuberi di Alitalia, esiste una dotazione iniziale con un range di 70 aerei, che è il numero di quelli che servono oggi per volare, ma questo non significa 4.000 esuberi. Non ci sono esuberi nel piano che ha in testa il governo, ha dichiarato il ministro Patuanelli. Altre dichiarazioni sono arrivate invece oggi dal ministro per le infrastrutture Paola De Micheli al termine dell'incontro che oggi è avvenuto in prefettura a Genova. E ricordiamo che, lo avrete sentito anche nei nostri giornali radio, c'è la data per l'inaugurazione del ponte Genova-San Giorgio, l'ex ponte Morandi appunto, che sarà inaugurato il 3 agosto alle 18.30, lo ha fatto sapere il sindaco di Genova appunto Marco Bucci. Ecco, ritornando alla Paola De Micheli, al ministro per le infrastrutture, ha detto: è sbagliata la narrazione che la Liguria sia irraggiungibile. Beh, diciamo che magari molti camionisti in questi giorni non sono d'accordo. Credo che da oggi dobbiamo cominciare a dire a tutto il paese di venire in Liguria a fare le vacanze perché i cantieri si stanno risolvendo. Ecco, allora, questo ci fa piacere. Vedremo se nei prossimi giorni potremo raccontare anche nei nostri spazi di informazione di meno code e meno disagi per raggiungere questa regione. L'ultima notizia riguarda il settore agroalimentare. Con un decreto interministeriale che è stato sottoscritto dai ministri dell'Agricoltura, Sviluppo Economico e Salute, oggi all'assemblea di Coldiretti, dove erano peraltro i ministri che vi ho citato poco fa, a Roma è arrivato il via libera all'etichetta con l'indicazione di provenienza su salami, mortadella, prosciutto e culatelle. Insomma, una bella notizia finale che a quest'ora peraltro stuzzica anche un po' di appetito, visto che sono le 17.30 e un aperitivo magari ce lo meritiamo. Perché questa iniziativa? Per sostenere il vero Made in Italy e smascherare l'inganno della carne tedesca o olandese spacciata per italiana. Questo è quanto ha detto il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in occasione della firma di questo decreto. Questo decreto, appunto, specifichiamo ancora un po', introduce l'indicazione obbligatoria, e quindi ci potrete fare attenzione prossimamente, della provenienza per le carni suine trasformate dopo che ha avuto il nulla osta da parte della Commissione europea. L'obiettivo è garantire trasparenza nella scelta ai 35 milioni di italiani che almeno ogni settimana portano in tavola ogni tipologia di salume, secondo appunto un'analisi di Coldiretti, ma anche per sostenere, quindi non è solamente per far fare ai consumatori delle scelte consapevoli, ma anche per sostenere straniere. Gli allevamenti nazionali di maiali sono almeno 5.000 e sono stati messi in ginocchio dalla pandemia e anche dalla concorrenza sleale, quindi speriamo che questo provvedimento contribuisca ad aiutare tutti, la consapevolezza dei consumatori, ma anche ovviamente gli allevamenti di maiali. Direi che con questa notizia, per le notizie in breve, è tutto. Siamo pronti per il primo tema di questa sera. Mi sono distratta, stavo semplicemente cercando di capire se e come ci stavate facendo compagnia con i vostri messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore mi chiede: ciao Deborah, tu cosa ne pensi dello smart working? L'ammiraglio Barisoni lo boccia. Allora, io devo dirvi che per quello che riguarda me, mi ha salvato la vita. Io fino a prima di marzo non avrei mai immaginato di poter condurre delle trasmissioni radiofoniche da casa. Sebastiano Barisoni ha le sue idee del tutto legittime, conduce un programma da solo in studio, io dovendolo fare con Mauro Meazza e condividendo lo stesso spazio, che è poco e non era nelle regole del distanziamento, ci siamo dovuti organizzare per ragioni di sicurezza. Sono molto contenta di venire in redazione, mi sono molto ben organizzata anche a casa, dove per ragioni personali riesco a concentrarmi di più, a leggere più attentamente le cose, per cui pro e contro di questo grande cambiamento con il quale tutti dobbiamo prendere le misure. Secondo me è in una versione un po' smart working anche la relazione annuale dell'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, l'ARERA, la ex autorità del gas e dell'energia. Perché dico così? Perché la sintesi di questa relazione annuale che è stata diffusa oggi è proprio una sintesi molto chiara, veramente anche a, come dire, a prova di poco competenti del settore come me. Stefano Besseghini, presidente di ARERA, buonasera e grazie di essere con noi. Buonasera agli ascoltatori. No, ma mi scusi, adesso a parte tutto non posso mostrarla neanche fisicamente ed esteticamente ai nostri ascoltatori che ci seguono solo radiofonicamente, ma mi sembra che abbiate fatto, non mi ricordo che negli anni passati sia stato fatto un lavoro del genere, un lavoro di sintesi molto molto chiara, anche eventualmente per i consumatori che vorranno leggerla. C'è una descrizione molto puntuale di tutte le voci che chiaramente compongono questa relazione, cosa è successo nel mercato dell'elettricità lo scorso anno, cosa è successo nel gas e nell'acqua e dei rifiuti, con un'attenzione molto alta per tutto quello che è il mondo del consumatore, per l'appunto. Presidente Besseghini, mi sbaglio o le ho fatto dei complimenti che non vi meritate? No, complimenti che non vanno a me, vanno alla struttura che sta lavorando duramente per fare in modo che questi temi, che sono temi certamente complicati, hanno anche tante sfaccettature, tanti collegamenti anche internazionali, possono essere compresi, anche perché questo rende comprensibile anche l'azione che l'autorità svolge. È vero, abbiamo cercato di mettere molta più organicità e selettività negli argomenti, cercando di fare in modo che fosse chiaramente comprensibile, identificabile. Era un lavoro che abbiamo già cominciato lo scorso anno, adesso evidentemente comincia a dare dei frutti più visibili e di questo sono contento. Presidente, sono le 17.30, le chiedo un minutino di pazienza perché abbiamo una pausa, così poi non la interrompo e facciamo per bene il nostro ragionamento su cosa è successo nelle bollette elettriche, nei consumi di gas e nel settore idrico l'anno scorso, ma poi mi piacerebbe anche sapere da lei se ha qualche previsione su questo 2020 e come sta impattando anche la pandemia sull'attività di un'autorità come questa. Tra poco. Focus Economia. Di nuovo in diretta, allora, presidente di ARERA Stefano Besseghini, a parte gli scherzi, mi veniva in mente, guardando proprio le prime due righe del vostro comunicato di oggi, quello che diceva George Orwell: tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali di altri, e cioè le bollette elettriche sono in crescita in tutta l'Eurozona ma in Italia sono un po' più pesanti perché ci sono le imposte e gli oneri di rete. Questo lo sappiamo, ma a parte questo, insomma, quali sono gli altri punti qualificanti della vostra relazione pubblicata questa mattina? Quali le buone notizie per i consumatori, soprattutto, presidente? Ma diciamo che la buona notizia, forse più complessiva è quella che il sistema energetico italiano riesce a tenere una situazione tutto sommato relativamente stabile complessivamente, anche se ci sono dei segnali che non vanno per nulla sottovalutati in termini di variazione di alcuni trend nell'andamento dei prezzi principalmente, sto dicendo, nei confronti con i principali paesi europei. Manteniamo alcuni vantaggi competitivi in alcune fasce di consumo rispetto ad esempio alla Germania piuttosto che all'Inghilterra, però cominciamo a conoscere qualche variazione in più, pochi punti percentuali, però è un segnale che va tenuto monitorato per altre fasce di consumo. Va segnalato come elemento di considerazione generale, perché poi queste fotografie ovviamente sono estremamente importanti nell'anno, ma hanno anche una loro lettura nel trend, che evidentemente nella sequenza nei diversi anni, che di cui bisogna tenere presente. Non dimentichiamoci che nel 2018 ci fu quell'operazione straordinaria, forse la ricorderete, proprio sugli oneri generali di sistema, per cercare di compensare le variazioni di costi dell'energia che c'erano in quel periodo. Era fu un'estate molto strana, con un prezzo del gas che cresceva in maniera incredibile. E poi questi effetti hanno avuto un loro riverberamento nel corso del 2019, di cui un po' abbiamo evidenza anche in questi numeri che vediamo oggi a distanza di un anno. Citava, Presidente, lei prima la Germania, me lo racconta subito questo spread al contrario, secondo il quale, per quello che riguarda per esempio il mercato elettrico, i prezzi sono in crescita in tutta Europa per i clienti domestici, ma in Germania sono più elevati rispetto a noi. Come mai? È una scelta storica che da sempre ha fatto la Germania di favorire, diciamo così, il costo dell'energia per la parte industriale rispetto invece ai consumatori domestici. Questo quindi poi si riverbera in un differenziale positivo per quanto riguarda le corrispondenti fasce di consumatori. Però anche per la parte strettamente industriale, grazie agli interventi che sono stati fatti sostanzialmente di incentivazione per alcune classi energetiche industriali, anche su quelle fasce riusciamo ad avere un elemento positivo rispetto alla Germania, che evidentemente non ha questo tipo di interventi. Poi il problema, diciamo, di leggere queste informazioni è che va sempre contestualizzato facendo dei confronti puntuali, categoria per categoria di consumo, che certo siano omogenei. Questo è sempre l'elemento. Devo dire che in questo periodo ci si è messo di mezzo anche Eurostat, che ha fatto una riclassificazione delle categorie complessive con cui vengono valutate appunto questi confronti a livello internazionale, e qualche dato si è, diciamo così, disallineato rispetto alle serie storiche, ma questo mi pare un dettaglio abbastanza marginale. Insomma, sì, però è interessante se consideriamo la situazione delle imprese, perché mi pare di capire, certo, che questa sia per esempio proprio la categoria che risulta un pochino più penalizzata da questa riclassificazione? No, in realtà quella più penalizzata paradossalmente sono proprio i basso consumanti, però adesso questo mi pare veramente un dettaglio molto marginale. Una cosa che invece sottolineerei ancora, certo, sempre in termini di buone notizie, è un po' la parte invece sull'idrico, perché quella è un settore, passando all'autorità dell'energia, l'idrico e i rifiuti, la parte dell'idrico ha conosciuto, e questo viene fotografato credo molto bene, un significativo aumento degli investimenti fatti per appunto il potenziamento delle infrastrutture. Abbiamo sempre un tasso di perdite medio abbastanza alto, intorno al 43%. Perdite negli acquedotti. Perdite degli acquedotti, naturalmente, certo. Però la quantità di spese, di investimento previsto nel quadriennio che si è concluso nel 2019, che ha segnato un passaggio regolatorio con il 2020, abbiamo cominciato con il nuovo metodo tariffario, il terzo metodo tariffario, ha dimostrato una decisa accelerazione in termini di investimenti. E questo peraltro è un trend che stiamo registrando positivo anche in questo periodo, e se posso legarmi a un dato un po' di cronaca, c'è da auspicare che questo sia un trend, c'è un settore su cui questo potenziamento degli investimenti cresca convintamente, perché in realtà è un settore in cui l'impatto dell'investimento è immediatamente positivo per gli utenti, evidentemente, in termini di disponibilità della risorsa e di mancata dispersione della stessa, e anche una grande capacità di essere impattante in termini di lavori che vanno realizzati, di lavori che vanno realizzati sul territorio, e quindi con un diciamo significativo impatto. Questa cosa viene bilanciata abbastanza in una percentuale coperta con le tariffe, che peraltro non registrano una variazione eccessiva, diciamo l'1-1,2% in termini di variazione delle tariffe, e contemporaneamente sono affiancate da un buon contributo dei fondi di natura pubblica. Quando perduto, gli due strumenti in questo settore convivono e danno luogo appunto a questa crescita degli investimenti, che credo che sia un elemento di grande attenzione a cui guardare retrospettivamente ma anche prospetticamente. Presidente, guardando all'energia ma anche al gas, che sono i due settori che ci interessano per quello che riguarda il passaggio al mercato libero, non c'è ancora l'obbligo, molti ascoltatori ce lo chiedono, perché abbiamo avuto un tira e molla che è durato per anni rispetto appunto alla, all'introduzione di questo passaggio dal mercato tutelato, che è quello dove è l'autorità che stabilisce appunto le tariffe, a quello libero, e quindi abbiamo la possibilità di accettare le offerte degli erogatori appunto dei servizi. E però insomma, in questo periodo, obbligo o no, molte famiglie hanno definito questo passaggio. Che percentuali ci sono? Sono interessanti? Secondo lei sono state scelte consapevoli o hanno avuto un po' troppo una spinta commerciale? Perché lei sa benissimo, perché l'abbiamo affrontato con lei molte volte questo tema, insomma le aziende che propongono questi servizi non sempre in maniera trasparente, perché inducono i consumatori a pensare che l'obbligo sia dietro l'angolo, e invece è stato continuamente procrastinato in questi mesi. Sì, purtroppo questo tema dell'obbligo che scivola è evidentemente un tema che si è prestato ad alcuni passaggi non felicissimi, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte. È un trend in crescita, diciamo che se guardiamo al profilo storico, il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero conosce una dinamica abbastanza regolare. Direi che questa si è mantenuta. Adesso siamo intorno con l'elettricità al 50% e con il gas a poco sopra, quasi al 60% per quanto riguarda il gas, e quindi direi che abbiamo una quota consistente di utenti che sono sul mercato libero. Ricordo che le prossime scadenze sono il gennaio del 2021 per le piccole imprese, come uscita diciamo così obbligatoria dal mercato tutelato, invece il gennaio del 2022 per tutti gli altri consumatori. Quindi il tempo per diciamo, la generalità dei consumatori c'è per ulteriormente informarsi. Io credo che ci sia stato anche un passaggio positivo in quest'ultimissima fase, legata paradossalmente a questa fase diciamo così purtroppo di lockdown e di potenziamento degli strumenti digitali. Almeno come prime reazioni, molti clienti si sono avvicinati a questo tipo di scelta utilizzando i canali digitali, che hanno alcuni vantaggi. Non ultimo il fatto che danno il tempo di informarsi, di acquisire le informazioni. Se poi si decide anche di utilizzare strumenti come il comparatore dell'autorità, quello che trovate sul portale offerte, anche di fare dei confronti, e quindi magari è un po' calato diciamo così la pressione fisica della sollecitazione diretta, e gli utenti hanno avuto modo di utilizzare strumenti. È cresciuta la quantità di SPID che sono stati sottoscritti per motivi esterni, per motivi esterni ovviamente al mercato strettamente elettrico, ma ricordo che lo SPID permette anche di entrare sempre nel portale consumi, invece il portale fatto dall'autorità con acquirente unico, che permette di vedere i propri consumi e di capire quindi un po' meglio qual è la tipologia di offerta che sarebbe necessaria. Non voglio fare l'ottimista a tutti i costi, però il percorso di maggiore attenzione a questo tema sta adagio adagio consolidandosi e crescendo. Non vale è la questione, sempre, però me lo faccio dire anche in questo caso qui, l'autorità comunque non telefona a casa, non sollecita sottoscrizione di contratti. Se vi chiamano dicendo che dovete rispondere per un adempimento dell'autorità, non è vero, mettete giù il telefono, questo Sì. Vale la pena di dirlo sempre comunque. Mi è toccata un'avventura di questo genere la settimana scorsa con un giovane operatore, non so neanche di quale compagnia, che si è presentato a casa dicendomi di chiedendomi di mostrargli l'ultima bolletta, perché voleva utilizzare, appunto, prendere il codice per dimostrarmi come c'era questo aumento degli oneri statali tali per cui era necessario che io passassi ad un'altra compagnia. Era molto giovane, quindi non ho infierito, ma gli ho detto: lo sai che stai più o meno compiendo una truffa, ne sei consapevole di questa cosa, e quindi insomma stiamo attenti. Ha fatto benissimo. Presidente, devo salutarla, ma ci risentiremo sicuramente presto tutta la vostra attività, della quale ci documentate sempre molto puntualmente. Grazie per essere stato con noi, buone vacanze. Stefano Besseghini, presidente di ARERA. La prossima pausa a tra poco. Focus Economia. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, un ingresso, eccolo qua, molto molto silenzioso, quello di Marco Ferrando, capo della redazione Finanza del Sole 24 Ore. Guarda Marco, puoi metterti qui di fronte, prendi un microfono, come vedi sono tutti senza il cappuccino, perché ce li abbiamo il cappuccino, cioè il cappuccio del microfono, naturalmente la spugnetta, non il cappuccino quello caffè latte, perché ce li abbiamo tutti personalizzati, e qua ovviamente dobbiamo stare distanziati, ma noi invece ti abbiamo voluto qui vicino perché ci devi raccontare un po' tutto questo fermento del settore bancario. Ce la fai con la cuffia? Allora, adesso intanto che attrezziamo Marco, vediamo se ce la possiamo fare. Ci senti da lì? E anche troppo? Guarda, a posto. Tutti gli ascoltatori possono guardarci su Facebook in tutte queste nostre manovre per poter portare a casa un'intervista appunto a Marco, che viene a raccontarci quello che sta succedendo nel settore bancario italiano. Vabbè, stiamo stressando ormai da molti giorni sull'offerta pubblica di scambio di Intesa Subi, per la quale Intesa nel weekend ha rilanciato, mettendo sul piatto anche una piccola quota cash, perché effettivamente aveva dedotto che le adesioni latitavano, forse non solo da parte dei grandi soci di UBI, ma anche dai piccoli azionisti. Devo dirti che stanno arrivando molte richieste ai nostri ascoltatori. Agli sportelli bancari informazioni non se ne possono avere. Stamattina anche il Sole 24 Ore segnalava come è chiaro che allo sportello dei diretti interessati non ti possono dare delle informazioni totalmente prive di conflitto di interessi. In tutto questo però si sta mettendo forse in moto anche un altro processo di consolidamento, non saprei neanche come definirlo, Marco, perché gli altri grandi attori del settore in Italia stanno immaginando di non poter rimanere indietro rispetto a quello che accada appunto fra Intesa e UBI nel caso in cui l'operazione vada in porto. Unicredit, Banco BPM crescono da tanti giorni in borsa e gli operatori immaginano che i prossimi attori a mettersi insieme, a pensare di fare qualcosa insieme, possano essere loro. Prego. Sì, è così. Diciamo che l'operazione di Intesa su UBI, che ormai, vista come accennavi i 650 milioni cash, e in questo momento chi può rifiutare un assegno firmato come gli azionisti UBI, sembrano aver di fatto avviato l'operazione verso il buon esito, e quindi UBI viene considerata fuori dal mercato, comunque insomma proiettata su Intesa. Intesa che sarà ancora più grande, non cambia diciamo l'ordine di grandezza, però sicuramente aumenta la distanza rispetto ai suoi inseguitori. Quindi in un settore che già faticava, perché noi abbiamo in testa le banche come un settore ricco in cui ce n'è per tutti, in realtà ben guardare da un po' di anni non è così, quindi le banche devono rivedere costantemente la struttura dei costi, le filiali, quant'altro, fare economie di scala, e quindi sicuramente questa operazione più si è grandi, più si spalma su un perimetro diciamo più ampio, anche gli investimenti che in tecnologie e quant'altro vanno fatti. Quindi effettivamente senza UBI, un'Intesa più grande, gli altri dovranno fare qualcosa. Tu citavi Unicredit che ha un amministratore delegato, Mustier, che ogni volta che può ribadisce che il percorso è stand alone, quindi loro stanno bene da soli, non hanno intenzione di crescere, tantomeno in Italia. È anche vero che nei cassetti della banca c'è un progetto per scindere le attività italiane da quelle europee, da quelle diciamo extra italiane, quindi Germania, Austria, Est Europa, che è sempre stato presentato da Mustier come una razionalizzazione finalizzata a ottimizzare il finanziamento sul mercato. Quindi all'Unicredit non italiana è più facile finanziarsi, quindi emettere obbligazioni diciamo, con una ragione sociale non italiana, perché a quel punto non impatterebbe il rating italiano e viceversa l'Italia continuerebbe come oggi. Quindi questo è un progetto che per ora risiede nei cassetti. I maliziosi dicono che quando mai potesse essere portato, diciamo, all'attenzione, potesse essere attualizzato, potrebbe favorire magari qualche operazione straordinaria, per cui magari togli il resto d'Europa e al pezzo italiano di Unicredit potresti agganciare qualcos'altro. Cosa? Si ragiona di Banco BPM, che per tanto tempo era stata, si è parlata, rumors dicono anche nelle ultime settimane, con UBI. Rumors dicono che si è anche valutato di un rilancio con Banco BPM e UBI, ma non ce n'erano le premesse, e quindi potrebbe essere Banco BPM Unicredit oppure Montepaschi. Esatto, il tesoro deve uscire, quindi diciamo che il tesoro deve uscire, però è ancora dentro per ora, e quindi ma soprattutto è ancora dentro quei 10 miliardi largo circa di crediti deteriorati che dovranno finire ad AMCO, quindi la cura, diciamo, dimagrante ormai è definita, però mancano ancora un po' di autorizzazioni, compresa quella della BCE. Insomma, c'è ancora una variabile regolatoria politica che rende il Monte Paschi un po' più difficile da piazzare, mettiamola così. C'è Biper che si prenderà le 500 e rotte in filiali di Intesa. Di cui deve liberarsi appunto per accontentare per l'autorità antitrust. Biper crescerà con queste 500 filiali, ma sicuramente ancora indietro per fare l'ambito terzo polo, potrebbe far parte della partita, ecco. E poi ci sono le altre estere, quindi parliamo di Agricol Italia, che è nato da Cariparma, Casa di Risparmio della Spezia, Friuladria, insomma, che comincia a essere una banca molto con una presenza importante. C'è BNL, che invece fa riferimento, come sappiamo, a BNP Paribas, che anche loro hanno sempre detto stiamo fermi. E poi lì c'è il tema di un gruppo francese che deve deliberare un investimento sull'Italia, che è già il loro secondo mercato, quindi insomma sicuramente uno scossone ci sarà, anche perché la sensazione è che buona parte dell'effetto del virus in termini di deterioramento crediti eccetera formerà una grande ondata che nell'arco di un paio d'anni finirà sulle banche. Infatti, Marco, proprio quindi... questo negli ultimi due minuti volevo chiederti, era sicuramente difficile immaginare che potesse mettersi in moto tutto questo in un frangente in cui tutto il sistema bancario italiano deve fronteggiare intanto l'erogazione di crediti come se non ci fosse un domani per far ripartire l'economia. Si sono assunti anche un impegno, se vuoi, sociale, hanno dovuto anticipare la cassa integrazione, insomma tanti impegni, adesso si assumono il credito d'imposta per mandare avanti l'operazione del 110%, quindi tante iniziative che tutto lasciavano immaginare tranne che effettivamente operazioni di questo genere si mettessero in moto in un momento anche in cui la BCE ha detto fermi tutti con i dividendi, quindi attenzione anche alle politiche di remunerazione agli azionisti. Era davvero il miglior momento per pensare a queste operazioni, o paradossalmente è davvero il miglior momento per farlo? Ma alla fine non è mai il miglior momento, c'è sempre una scusa buona per non farlo, perché alla fine non dimentichiamo che le fusioni tra banche portano anche a una riduzione sensibile dei posti che contano, e quindi i banchieri quando possono rinviano, perché sanno di mettere a rischio la propria posizione. Diciamo che la direzione è sicuramente questa, il fatto che Intesa si sia mossa poco prima comunque di un qualcosa che nessuno poteva immaginare conferma che qualcosa prima o poi avrebbe dovuto accadere. Sicuramente da un lato, come dicevi tu, tutta questa serie di iniziative, erogazioni, cassa eccetera sta facendo prevalere l'attenzione sul diciamo più sul libro crediti, quindi, che non sullo stato patrimoniale, ma arriverà un momento in cui i conti si dovranno fare, e sicuramente più si è grandi meglio è, certo. Perché i conti si dovranno fare. Allora, avrete di che divertirvi quest'estate voi in finanza? Ma noi 24 da anni che ore. Ci divertiamo. Ecco, molto bene. Grazie Marco Ferrando, grazie capo della redazione finanza delle Sole 24, c'è il giornale radio, ma torniamo subito dopo. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Focus Economia. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, abbiamo il temone della giornata, il Recovery Fund, e però prima dobbiamo anche raccontarvi come si è chiusa la giornata di borsa, segnalandovi che poco fa, lo stanno segnalando molti analisti finanziari che seguo su alcuni blog, ma lo vedo anche dalla piattaforma Market Pro che utilizziamo per aggiornarvi sui mercati, c'è una fiammata dell'euro sul dollaro a ridosso di 1,15. Chissà se questo è un effetto di una lettura più approfondita dei termini, appunto, del piano approvato questa mattina presto dal Consiglio europeo. Lo scopriremo fra un istante. Adesso vi racconto in borsa cosa è successo oggi. Milano chiude con un più 0,49%, stamattina è partita con un rialzo di oltre 2 punti, poi ha notevolmente ridotto la sua prestazione. Francoforte più 0,96%, Londra più 0,13%, Parigi più 0,22%, ben impostata Wall Street con il Dow Jones in rialzo di 1 punto, lo Standard & Poor's più 0,44%, mentre frena di mezzo punto il Nasdaq. C'è Ocondina, Radio Cor, Il Sole 24 Ore, buonasera. Ciao Deborah, buonasera a tutti. Allora, ti esonero intanto da parlare dei temi bancari, perché ho già fatto poco fa con Marco Ferrando, per cui possiamo limitarci agli altri temi della giornata. Vedo che però effettivamente sul finale di seduta i bancari sono stati scavalcati da titoli appartenenti ad altri settori. Pirelli più 3,74, Moncler più 2,43, tutti i petroliferi in rialzo. Vedo, cosa è successo in questa seconda parte della giornata, CEO? Ma diciamo che la seconda parte della giornata ha un po' rimescolato le carte, seppur parzialmente, un po' di quella che era una seduta che era, come hai detto tu, era iniziata molto bene col FTSE MIB che a metà giornata guadagnava oltre il 2%. Ricordiamo che il FTSE MIB è comunque ai massimi da marzo, i listini hanno corso davvero molto, Francoforte e Zurigo hanno, con oggi di fatto, hanno azzerato le perdite da inizio anno, quindi è anche plausibile pensare che nel pomeriggio qualcuno abbia voluto così realizzare i guadagni che comunque ha messo a segno magari comprando quando i titoli erano sui minimi. Per quanto riguarda un po' le singole azioni di Piazza Affari, sicuramente, come citavi, petrolifine rialzo grazie alla, diciamo, al buon andamento del greggio. Le banche sì, si sono un po' spente nel finale di seduta, ma comunque sia Intesa San Paolo che Unicredit hanno guadagnato bene, bene anche Generali che guadagnò 1,5 punti. La compagnia triestina è molto esposta sui BTP, è molto esposta sull'Italia. Chiaramente il fatto che lo spread sia sui 150 punti base e abbia adesso, con l'accordo sul Recovery Fund, una prospettiva per stare su questi livelli, se non ancora più in basso, certamente favorisce, diciamo, le Generali. Tra l'altro, di questa situazione favorevole sul fronte spread vedo che ne approfitta anche il Tesoro, che poco fa ha comunicato che è prevista per domani un'emissione che in gergo tecnico si chiama TAP, riservata agli operatori specialisti, per un corrispettivo di circa 2 miliardi e quindi, insomma, ci si prova a prendere vantaggio di questa situazione, appunto, che è maturata in questi giorni. Il peggior titolo della seduta, Telecom, meno 2,5 punti, ma mi pare che nei giorni scorsi fosse andato bene, ci sono notizie qua. Il tema dell'open fiber sempre sotto gli occhi di tutti. Sì, sì, c'è il tema della, insomma, un po' di quell'operazione sulla rete unica che è allo studio ormai da mesi, un po' sfinente come operazione, però è comunque lì sul tavolo. Sicuramente poi quando andrà, sarà implementata, porterà una creazione di valore. C'è anche il tema del possibile consolidamento di Telecom Italia in Brasile con, esatto, Oi. Con la parte di telefonia mobile di Oi, c'è sicuramente, insomma, un focus sul titolo. Giustamente dicevi tu, settimana scorsa aveva corso molto, oggi qualche realizzo, ha perso il 2,5%. Leonardo Finmeccanica meno 2,29, Buzzi meno 1,54, oggi peraltro penalizzate anche le farmaceutiche di Piazza Affari, di Asorin meno 1,44, ricordati meno 0,8, perché a quanto pare non prendono parte alla corsa al vaccino contro il Covid, che nelle ultime ore, ne abbiamo parlato anche nel giornale radio, ha portato dei risultati molto importanti per quello che riguarda, appunto, la produzione finalmente di una cura preventiva e quindi il vaccino contro il virus e quindi c'è questa iniziativa che arriva dal Regno Unito che vede in pista AstraZeneca, una società biotech di Pomezia, di Roma, ma appunto non queste due che in realtà erano soprattutto di Assorni e si era messa in luce nelle scorse settimane per in particolar modo i test diagnostici, quindi non per il vaccino. Detto questo, insomma, un po' indietro questo settore, Nexi meno 1,16, STM meno 1,12, Atlantia oggi che cosa ha combinato? Atlantia oggi ha guadagnato lo 0,3%, positiva, anche se insomma dopo le fiammate delle ultime sedute adesso sul titolo c'è un pochino diciamo di prudenza. Ci sarà un po' una corsa contro il tempo entro fine luglio per mettere a punto diciamo un'intesa preliminare tra Atlantia, la stessa Autostrade per l'Italia, Cassa Depositi e Prestiti per implementare quello che è l'accordo quadro che è stato così disegnato col governo ma che ovviamente deve essere messo a terra, devono essere messi giù i numeri e poi sappiamo che poi il diavolo è nei dettagli, quindi diciamo che la borsa sta un po' aspettando quello che sarà l'evoluzione del dossier, anche se ci si aspetta che diciamo la parte più difficile sia stata superata. Grande protagonista della giornata è stato però il Recovery Fund e adesso ne andiamo a parlare ringraziando CEO Condina, Radio Cor, Il Sole 24 Ore. Buona serata. We did it. We have reached a deal on the recovery package and the European budget, a marathon which ended in success for all 27 member states. But especially for the people. This is a good deal, this is a strong deal, this is the right deal for Europe right now. Europe as a whole has now a big chance to come out stronger from the crisis. Today we've taken a historic step we can be all proud of. But another important step remains ahead of us. First and foremost, we now have to work with the European Parliament to secure agreement. We have a lot of work ahead of us, but tonight is a big step forward towards recovery. Le voci che avete sentito, quella di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, l'abbiamo fatto, ci siamo riusciti, l'Europa è solida, è unita, è stato difficile, ma è stata una maratona che è finita con un successo per tutti, un momento centrale nella storia dell'Europa e poi Ursula von der Leyen che ha parlato di un'Unione europea capace di agire e di pensare in grande, una tappa storica per l'Unione. E allora, è davvero così? Cosa ne pensano i macroeconomisti che si sono messi naturalmente subito allo studio delle carte per capire quanto è importante quello che è successo questa notte in Europa? Francesco Daveri, direttore del Master MBA Full Time della SDA Bocconi, oltre che una delle firme storiche della Voce.info. Buonasera professore, grazie. Buonasera. Allora, lei ha rilasciato alla Voce.info un commento piuttosto articolato rispetto al Recovery Fund, al risultato appunto che è arrivato questa mattina presto all'alba dopo 4 giorni e 4 notti di trattative che sono state sicuramente difficili, estenuanti fra i leader dei 27 paesi dell'Unione Europea che alla fine sono riusciti ad accordarsi su quella che lei ha definito una decisione senza precedenti. Non vorrei di nuovo ricordare ancora la montare complessivo, 750 miliardi con un rapporto molto preciso fra prestiti che verranno erogati e fondi cifre appunto a fondo perduto. Cosa l'ha colpita di più di quello che è successo nelle ultime ore, professor Daveri? Prima le vorrei chiedere un commento proprio a caldo, a prescindere dal contenuto tecnico dell'accordo. Ma che alla fin fine poi, nonostante non so, anche solo andando indietro a sabato, domenica, ci fossero delle divisioni che sembravano difficili da ricomporre, come fa l'Europa e le istituzioni europee in questi casi, si sia arrivati a un compromesso. In questo caso mi sembra un compromesso che non rinvia troppo al domani i problemi, e questo è un aspetto positivo. Cioè, alla fin fine il fatto di avere alcune volte i compromessi servono per poi poter dire con saldo intese, magari uno rinvia domani, ecco le cose più difficili. In questo caso il litigio tra l'Olanda, l'Italia e gli altri partecipanti ha portato sul tavolo subito alcuni dei temi più difficili, cioè a chi mettere in mano l'ultima parola sul monitoraggio di come vengono spesi i soldi, per esempio. questo è stato discusso, credo, animatamente e a lungo all'interno del negoziato. Questo è un aspetto positivo perché è servito a chiarire molte cose prima, no? Questo certo. Non vuol dire che è stato chiarito tutto, però almeno qualcosa. Ci mancava pure che mettessero come postilla vediamo domani o dopodomani, anche perché comunque di fatto queste risorse potranno essere utilizzate effettivamente da domani, perché sarà possibile solo a partire dal prossimo anno, ma intanto si può cominciare a mettere nero su bianco un progetto concreto su cui chiaramente puntare per capire come spendere questi soldi, e ci sono delle indicazioni molto precise su come farlo. C'è il traffico, ci fermiamo un attimo, poi andremo anche a questi dettagli. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Focus Economia. Siamo soddisfatti. Abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso, adeguato a queste necessità che stiamo vivendo, che ci consentirà di affrontare questa crisi con forza, con efficacia. È un momento storico per l'Europa, è un momento storico per l'Italia. La nostra richiesta, la convinzione che abbiamo nutrito in questi mesi, la visione, la determinazione con cui abbiamo perseguito questo obiettivo sono state premiate. Il Premier Conte ha espresso la sua soddisfazione. L'Italia ottiene il 28% di questo fondo, 209 miliardi, 81 in sussidi, 128 in prestiti. Professor Daveri, ci spiega concretamente come operativamente verrà messa a terra ogni tipologia di iniziativa che dovrà essere finanziata con queste forme erogate appunto dalle Recovery Fund? Cioè sulla base di quello che sappiamo fino a questo momento, ovviamente. Esatto, molto deve essere ancora un po' spiegato, ci sono 68 pagine da leggere per bene, però penso che la prima cosa da fare per l'Italia, per esempio, è mettere un po' d'ordine tra i vari innumerevoli progetti di riforme che giacciono dai piani nazionali di riforme scritte nei documenti ufficiali depositati in passato. Stavolta non l'abbiamo ridepositato, ma sicuramente dal passato abbiamo ancora un avanzo di riforme mai fatte che riguardano il miglioramento della pubblica amministrazione, minor burocrazia per le piccole imprese, il migliorare, rendere più efficiente il funzionamento del sistema giuridico, e insomma la lista è lunga. Ecco, queste cose bisogna mettere in ordine. Allora, quindi bisognerà fare tra tutti i piani esistenti dal passato il rapporto Colao che aveva 120 pagine di proposte. Bisognerà decidere, il governo dovrà decidere quali sono quelle veramente importanti e numerarle, metterne una, due, tre, quattro, cinque, e di fronte a queste riforme si mettono i dettagli, si vede se queste riforme richiedono investimenti, e questi investimenti potranno essere chiesti alla Commissione europea e all'Europa per poter essere finanziati. Questo per semplificare. Poi ci sono in realtà tanti settori in cui si articola i finanziamenti che arriveranno, che vanno dal finanziare la ricerca, finanziare anche lo sviluppo rurale, ci sono poi dei soldi che vanno a finanziare i produttori manifatturieri polacchi che rischiano di perdere da una transizione verso la sostenibilità energetica che ridurrà il consumo di carbone. Insomma, ci sono tanti aspetti di dettaglio che vanno naturalmente studiati, però in particolare l'Italia deve partire dal fare una lista di cose da fare e mettere ordine tra i non basta fare un PDF più lungo dei precedenti. No, anche perché il piano Colau, mi sembra di ricordare, appunto lei ha citato il numero delle pagine, già più lungo del piano appunto che ci racconta come è articolato il recovery fund, e quindi già questo è tutto un programma. Comunque i settori che dovranno essere privilegiati sono molto chiari: il green, il digitale, le infrastrutture e la ricerca. Tutto questo, professor Daveri, fatta salva appunto l'eventualità che non arrivi ad inasprirsi una recrudescenza del Covid, non arrivino altre preoccupanti condizioni come quelle che abbiamo visto. Questo noi naturalmente lo scongiuriamo, ma il punto è, ci basterà tutto questo sì per fronteggiare questo calo teorico del PIL, perché ancora l'anno siamo a metà e non sappiamo, questa è la, come stima, quella rilasciata dai principali istituti nazionali ed internazionali, meno 12% per quello che riguarda l'Italia, meno 8% per quello che riguarda l'Europa, però sono stime per l'appunto fino ad ora. Ci basterà tutto quello che ci arriva? Dunque, il recovery fund approvato oggi non serve a tutto questo, perché i fondi arrivano nel 2021. Quindi quello che possiamo fare oggi è quanto il governo ha predisposto, quanto gli altri governi hanno messo, ognuno con piani nazionali, e poi ci sono i fondi che erano stati messi da parte dall'Unione Europea in passato e che riguardano il cofinanziamento delle casse integrazioni nei vari paesi, che riguardano anche, se ce lo vogliamo pigliare, il MES per finanziare la spesa sanitaria. Questi sono soldi che possono arrivare prima e che possono controbilanciare il calo del meno 10, meno 12, quanto sarà, del PIL di quest'anno. Quindi il progetto invece che è stato approvato oggi guarda all'Europa del 2030 in un certo senso, ma non perché arriveranno nel 2030 questi fondi, ma perché bisogna cominciare oggi a investire, fare, operare in tutti questi settori che citava prima lei, e che però non è che si rende un paese che non fa ricerca, un paese che improvvisamente si mette a fare ricerca in modo produttivo dall'oggi al domani. Ci vuole del tempo, ma prima si comincia, prima si arriva. Ecco, certo. Questo è un po' la cosa. Professor Daveri, un'ultima cosa, questa suscita pure grande dibattito e curiosità: abbiamo definitivamente escluso la possibilità che l'Italia, accanto a quello che ha ricevuto appunto questa notte, possa far ricorso al MES? Ma il Premier ha detto che a questo punto non ci serve più il MES. Io sarei un po' meno sicuro, perché per l'appunto c'è una questione di timing, cioè di quando le risorse diventano disponibili. Se noi vogliamo per esempio rafforzare l'assistenza medica sul territorio e vogliamo farlo subito, prima che di rischiare di trovarci impreparati, Dio ci scampi e liberi, però che possa tornare una seconda ondata nel prossimo autunno, prima del prossimo inverno o nel prossimo inverno, dovremmo essere già pronti, e i fondi del recovery fund non ci servirebbero per questo, mentre i fondi del MES potrebbero servirci per questo. Quindi sarei attento a dire che il MES non ci serve, anche se ne capisco le ragioni, visto che ci sono problemi politici tuttora che non sono stati risolti nell'accettare, certo, o non accettare questi fondi. Ci aiuta a visualizzare anche qual è l'impatto sui conti pubblici italiani in tutta questa operazione notturna? Ma dunque, l'operazione notturna ci fa arrivare dei fondi che sono in totale 200 miliardi, ci farà arrivare 200 miliardi su un periodo lungo di tempo, che sono divisi in 80 miliardi di aiuti, che quindi non pesano sul nostro deficit e debito pubblico, e circa 130 miliardi che invece sono in forma di prestito, quindi se attivati quelli peseranno sul nostro deficit e debito pubblico. Quindi questa è la prima distinzione che si può fare. Quindi gli 80 miliardi sembrano gratuiti dal punto di vista del deficit e debito pubblico, ma tutte e due li dobbiamo spendere bene, cioè sia gli 80 miliardi che ci vengono dati in contributi che non dobbiamo restituire, ancora di più gli altri che ci potrebbero arrivare e che invece dovremmo restituire, visto che poi peseranno sul nostro debito pubblico. Ci mancano 40 secondi, professor Daveri, le chiedo un ultimo aiuto per chiarirci un altro aspetto. Si dice appunto che l'Europa riesce in questa modalità effettivamente a attivarsi con per la prima volta nella storia con una forma di eurobond. È così appunto, possiamo definirlo così anche l'esito di questa operazione, visto che viene raccontato anche così sui giornali, sui siti? Sì, cioè si tratta per la prima volta di far ricorso esplicitamente a forme di emissione di obbligazioni che possiamo chiamare eurobond, cioè con una assunzione di responsabilità collettiva da parte dei 27 paesi, e questo non era successo. L'Eurobond era poi finanziato con l'attuazione di alcune misure di rafforzamento della capacità di tassazione da parte dell'Europa, per esempio la tassazione delle multinazionali digitali, su cui ci sono tante controversie, e altre iniziative che riguardano appunto lo scoraggiamento di cose che sono dannose dal punto di vista della sostenibilità, e per finanziare invece cose che sono più positive da questo punto di vista. Sarà un tema che commenteremo ancora per molte settimane. Grazie a Francesco Daveris da bocconelavoce.info, grazie a Roberta Frisani, a Maria Sole Lisciandro, Barbara Bianchi per la collaborazione in redazione e in regia. Da Deborah Rosciani a tutti una buona serata. Noi ci risentiamo domani mattina a 2 di denari. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.